sentimenti da sentimentalmente di un tingerti, tuo e tu mia Tarniani rappresi dall'onda io, entro un empatico telepatici tensioni, di scrosci d'onde dei delfini morenti divorati via, non più mia, scroscianti sentimenti, e poi ti sento in eco come delfini in un macello di stella, che mia non hai mai, tua quando eri mia, me alma oro dal fango, Clarence d'onore in memento di percezione, onori, onore scrivendo meriti, livelli di ieri dove ieri sera intenti di sere morenti, poi bocca mia si scisse a morsi fuori controllo, fuori tempo di un urlo e vomiti, taccia no, bocca di rottura di parole, diventi di rabbia, poeti nel bavo rotto di parole, tuo mangio ora rimorso, dorso alzo matto fino a sangue splendente e risplendente di cicatrice alla luce, diurno piangente, efficiente me tolgo, poi luce nuova, sarà senza te sconvogliarti nel mio rinunciare al tuo amaro veliero per un'arma nuova. Riuscito dalle ombre alla luce, brotalco di un pianto, ipotesi candida, di un prologo di luce, brotalco di un pianto, profumo della merda, di un solitario, lacido di mano eretica, ove primo c'era inchiostro di venne pena, d'ombre di penna, quando io mortale curo il pacco strazio di pianto, letto morto, costo, non pentimento, amaro fu l'amarti il mio solitario, ove amor poetico diventa digiuno nel lacrimare di un sesso internato, dove fuori d'urne diventa picche di rifiuto un cuore di re di cuori, temandoti sogni in tempesta di psiche lasciarsi, di lacci al collo guinzaglio, io fuggito da te a memoria, dimenticando strangolarlo, più tiro il telaio di dimenticanza, accordi di mancini, violini, di accanto, di togliermi da te, di nemici, al mio non ridere, del tuo ricordo che memento sussurra Maometto morto, messia dal verbo debole infranto disonorato al collo che mai amato ma sono stato da te su soldi stracci sei nel pensiero che t'ha donato d'usura di emozioni per pari non scendo insulti di demenza ma hai lasciato che scrivo questo capolavoro penna per dirti che di genio vado indicandoti per sempre nel saluto amaro e amaro e triste digiuno, sentieri da sentimentalmente di un tinger di tuo e tu mia, Tarniani appesi dall'onda, io entro nel padre della fiera. Addio, addio per sempre, violenza sul mio cranio, dimentico randagio, il folle mio dono al mondo è l'insulto che mi hai fatto, un tuono. L'orgoglio infranto.